Salva Danaio di Deborah Rosciani. Eccoci ritrovati a Salva Danaio, buona giornata da Deborah Rosciani. Una giornata impressionante per i mercati finanziari internazionali che stanno stamattina tentando di recuperare il terreno, almeno parte, sicuramente è un recupero ancora molto parziale delle perdite degli ultimi giorni. Siamo in balia, come sapete, di una crisi finanziaria molto netta, molto forte, per certi versi molto preoccupante, perché insomma ha questa derivazione americana e riguarda fondamentalmente le banche americane. La Banca d'Italia ha assicurato che il nostro paese non subirà le conseguenze della caduta dei mercati in corso, ma insieme a lei l'ISVAP, l'autorità di vigilanza sul settore assicurativo, la Consob invece, l'autorità di vigilanza sul mercato, continuano a monitorare ognuno per il proprio settore il rischio contagio del crack finanziario americano, particolarmente forte da quando nel fine settimana è stata lasciata fallire la banca Lehman Brothers. Molte famiglie, molti risparmiatori italiani hanno colto l'occasione in questo momento per eseguire un esame degli strumenti di investimento che hanno in mano e che hanno in portafoglio, e si scopre che non mancano le obbligazioni bancarie di targa americana. Che cosa fare ora con questi titoli? Oggi ne parliamo con i nostri ospiti, in realtà ne abbiamo parlato anche nel corso della settimana e abbiamo appurato che effettivamente c'è una grande difficoltà in questo momento per i risparmiatori che detengono questi titoli nella scelta dell'atteggiamento corretto da adottare in questo momento. È comprensibilmente difficile, allora cercheremo un po' di capire anche come rasserenare insomma anche la platea degli investitori all'ascolto. I nostri interlocutori di oggi: Maximilia Ancellino, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore. Plus 24 ovviamente domani dedica gran parte delle sue pagine alla crisi in corso e ai suoi risvolti fra i risparmi e gli investimenti degli italiani. Abbiamo poi Jacopo Ceccatelli, responsabile strategia, amministratore delegato di JC e Associati, tra l'altro autore anche di un recente report sulle obbligazioni Lehman Brothers. Ci sono delle indicazioni molto interessanti, dovrebbe raggiungerci, speriamo di recuperarlo anche Giuseppe Marzi, responsabile del settore di private banking per Schroders Italy SIM. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi, 349 238 6666, il numero invece per i vostri messaggi. Riepilogo della seduta finanziaria in corso, della seduta di borsa: Parigi più 6,27%, Francoforte più 3,96%, Londra più 8%, Milano, Piazza Affari più 5,54% sull'S&P MIB, più 4,95% per il MIB. Cosa è successo? È successo che ieri l'amministrazione Bush ha deciso di costituire questo trust federale, una sorta di bad company, come l'abbiamo definita più volte in questi giorni parlando di vicende nostre, di vicende italiane, che possa acquisire tutti i cosiddetti asset illiquidi in circolazione in questo momento. I titoli tossici li ha definiti qualche collega giornalista. Io volevo, prima di sentire la nostra scheda, interagire subito con Maximilia Ancellino di Plus 24 del Sole 24 Ore, perché credo che della prospettiva di questo trust voi parliate domani su Plus 24 del Sole 24 Ore. Sì, ne parliamo e vorrei dire a tutti, noi abbiamo appunto chiuso il nostro giornale ieri sera quando ancora non era all'orizzonte questa idea, però parlando in giro con gli analisti, abbiamo appunto fatto diverse interviste, pareva che questa dovesse essere l'unica soluzione possibile, anche una soluzione da adottare molto rapidamente, una soluzione molto simile alla crisi che alla fine degli anni Ottanta era venuta sempre negli Stati Uniti con le allora casse di risparmio, le cosiddette saving and loans. Allora la crisi venne risolta alla fine creando una cosiddetta Resolution Trust Corporation che acquistava tutti gli attivi in sofferenza di queste società. La cosa sembra che sia la direzione verso cui si sta remando adesso. È una soluzione probabilmente costosa, ma necessaria, assolutamente necessaria, se si vuole voltar pagina. Prima di andare alle nostre obbligazioni in difficoltà, volevo sentire su questa iniziativa notturna anche Jacopo Ceccatelli, JC Associati. Buona giornata e grazie di essere con noi. Buongiorno. È un'iniziativa salutata con grande clamore positivo dal mercato questa mattina. Ma non c'è dubbio, sicuramente il mercato è stato a lungo influenzato dal sospetto, quantomeno dal timore che i grossi istituti finanziari così, potessero andare in insolvenza, potessero fallire a causa di questi prodotti, se ne è avuta la certezza lunedì e da lì è iniziato sicuramente una specie di gioco al massacro del mercato che ha colpito anche gli insospettabili durante la settimana. Goldman Sachs a inizio settimana non era minimamente considerato una banca a rischio e sicuramente mercoledì lo era. I pro e i contro di questa soluzione ovviamente sono, credo, evidenti. Il pro è quello di se riusciranno a ridare fiducia almeno sul fatto che non ci sarà una crisi a livello di sistema sulla rete, sul settore bancario internazionale. Il contro ovviamente è che tutto questo avrà un costo molto elevato. E riconducibile a che cosa? Un costo elevato perché, Ceccatelli? Un costo elevato perché chiaramente il tesoro americano, e bisognerà vedere se basterà, se non sarà necessario anche prendere iniziative a livello europeo, si farà carico e quindi direttamente si faranno carico i cittadini degli eccessi che il sistema bancario di fatto almeno una parte del sistema bancario ha avuto negli ultimi anni. Chiaramente queste perdite verranno presumibilmente caricate sui contribuenti. Sui contribuenti e quindi sul bilancio federale. Grazie per adesso, noi andiamo invece, anzi vi dico anche magari un po' più nel dettaglio cosa accade a Piazza Affari, dove non abbiamo, anzi ce n'è solo uno, un titolo negativo, Snam Rete Gas meno 0,12%, per il resto tutti segni più, che sono particolarmente forti su Unicredito più 10%, la banca probabilmente a Piazza Affari più bastonata dalla crisi recente, Intesa San Paolo più 9,27%, Mediolanum più 8,21%, poi sentiremo un'intervista rilasciata dal numero uno del gruppo, Ennio Doris, che precisa l'esposizione del gruppo sulle obbligazioni Lehman e le polizze vita del gruppo esposte su titoli Lehman Brothers, Pirelli più 7,56, Geox più 7, Seat pagine gialle più 7, più 6,5 punti per Unipol, anche in questo caso iniziativa in corso per proteggere gli investitori di polizze Unipol che sono investite e riconducibili a titoli Lehman Brothers, Banca Popolare di Milano più 6,71, più 6,5 punti ancora per Fiat, per l'Espresso più 6, per Fondiaria, per Mediobanca, per Banca Monte dei Paschi, per Ubibanca, insomma giornata di recuperi assolutamente importanti e forti per il comparto bancario. Una giornata di sereno per fortuna, almeno molti investitori andranno questo fine settimana, si riposeranno in maniera un po' più serena rispetto agli ultimi giorni, forse un po' meno sereni saranno invece i detentori di obbligazioni bancarie in difficoltà. Sentiamo. Fallita Lehman Brothers, nazionalizzato il colosso assicurativo AIG, in attesa di conoscere le sorti di Morgan Stanley e Goldman Sachs, sul mercato è un rincorrersi di dichiarazioni tese a precisare l'impatto che il terremoto in atto nel settore finanziario potrà avere nei bilanci di altri intermediari, ma soprattutto nelle tasche dei piccoli risparmiatori. Dalle azioni alle obbligazioni, dalle cosiddette polizze unit linked alle posizioni dei gestori di fondi italiani, sono molti gli strumenti attraverso i quali si può essere esposti più o meno consapevolmente al rischio. Il pericolo più grande per quanto riguarda la banca d'affari finita in bancarotta è rappresentato dalle obbligazioni, in particolare quelle impiegate nella costruzione dei cosiddetti index linked, prodotti assicurativi in cui l'assicurazione o la banca non si assumono il rischio di un eventuale fallimento delle obbligazioni sottostanti e quindi non garantiscono il rimborso dei soldi investiti a scadenza. E proprio nei giorni scorsi, alcune delle compagnie che hanno venduto ai loro assicurati polizze indicizzate garantite da Lehman hanno deciso di sospendere le valorizzazioni dei prezzi che vengono pubblicate sui giornali, impedendo di fatto ai risparmiatori coinvolti di uscire immediatamente dall'investimento. Possibile rimborso in vista, invece, per quanto riguarda i possessori di semplici bond Lehman, che dovrebbero partecipare alla ripartizione dell'attivo rimasto dopo la vendita degli asset. I più fortunati saranno i cosiddetti creditori privilegiati senior, che potrebbero ottenere fino al 30% del capitale investito. Andrà peggio invece a chi ha in portafogli i bond subordinati, prodotti più remunerativi ma maggiormente rischiosi. E se questi sono i principali timori legati all'eventuale fallimento di Lehman, iniziano ad emergere anche i problemi legati al futuro di AIG e all'ipotesi di nuovi crack finanziari da digerire. ISVAP, Consob e Banca Italia continuano intanto a monitorare, ognuno per il proprio settore, il rischio contagio, così come le banche che proprio in questi giorni stanno tentando di quantificare la propria esposizione verso i due colossi americani. 800 24 00 24 è il numero verde che vi dà l'opportunità di interagire con noi questa mattina sul tema delle obbligazioni bancarie a rischio o quantomeno in difficoltà. 349 238 6666, il numero per i vostri messaggi. Vedo già pronti alcuni ascoltatori. Enzo da Novara, Michele da Milano, chiedo a loro ancora un po' di pazienza. Sentirei però Michele subito, se è possibile. Michele, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Tanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Io avevo bisogno di più che altro di avere un'informazione in merito a un titolo azionario Freddie Mac dell'Istituto Creditizio per quanto riguarda titolo americano, che tra l'altro è sospeso da più circa 10 giorni. Sì, io... ha seguito le vicende di Freddie Mac Milano. Io tra l'altro ho fatto fatica anche a recuperare informazioni su questo titolo, visto che ero anche in possesso di qualche azione. Ma lo sa che sono state oggetto, di un grande salvataggio operato dal Tesoro americano? Sono state nazionalizzate queste agenzie, Freddie Mac e Fannie Mae. Esatto, sì. Ecco. Da lì poi il titolo è stato sospeso e quindi non ho più avuto notizie in merito. Michele, beh, questo è un po', credo, la confusione che regna fra molti risparmiatori che detengono azioni o obbligazioni direttamente o indirettamente perché hanno prodotti indicizzati a questi titoli. Sicuramente quello che è successo negli Stati Uniti lascia un po' di stucco tutti, perché per certi versi qualche episodio è stato anche dirompente nell'effetto, come il tracollo del fine settimana di Lehman Brothers. Però Jacopo Ceccatelli, lei so che si occupa fondamentalmente di reddito fisso, però per queste due società parastatali che sono state nazionalizzate appena 15 giorni fa, la settimana prima del fallimento, anzi della richiesta di protezione dai creditori da parte di Lehman Brothers, non sono più quotate, credo che ormai siano sospese le azioni. Che possiamo dire, Michele? No, mi sembra, sinceramente adesso stavo controllando, ma mi risulta che quotino. Freddie Mac ha chiuso a 0,33. Però praticamente hanno perso tutto il loro valore, ma sì. Questa era una tendenza che andava avanti da settimane. Sì, sì. Tendenzialmente la view del mercato è che ovviamente sono stati garantiti tutti i creditori, quindi ovviamente inclusi gli obbligazionisti, ma non gli azionisti. Per cui insomma è come un po', per banalizzare molto il nostro discorso, è come per gli ex azionisti Parmalat, quelli che avevano in mano i titoli della società, della vecchia società, essendo fallita. In questo caso non è proprio così, perché Freddie Mac non è fallita, è stata nazionalizzata. Quello che il mercato in questo momento sta scontando è che nei mesi successivi chiaramente queste due società verranno sicuramente modificate e si presuppone che agli azionisti non andrà quasi niente, verranno tutelati rispetto ai creditori. Quindi insomma una situazione in ogni caso non bella per il nostro ascoltatore, che dovrà probabilmente, se proprio vuole liberarsi di questo fardello, tentare di venderle, e sicuramente accusando anche tutta la perdita. Il racconto di Michele da Milano, Maximilian, ci può introdurre anche al tema di quest'oggi, sicuramente in questo momento grande confusione per chi detiene in portafoglio titoli di cui magari non conosceva esattamente il grado di rischio, anche se per titoli Lehman Brothers, fino ad una settimana fa, torniamo a dirlo, era assolutamente impossibile immaginare lo scenario che poi è maturato nel fine settimana scorso. Sì, possibile fino a un certo punto, perché i titoli di Lehman quotavano, mi sembra, erano arrivati a quotare anche fino a $80 pochi mesi fa, e nel giro di poco tempo sono crollati, prima sotto i 20, poi sotto i 10 e poi alla fine quasi a zero. Per cui dire che non ci si aspettava è un po' un'esagerazione. Diciamo un'altra cosa, che probabilmente c'è un concetto, uno slogan che girava molto fra i mercati in questi ultimi tempi, in queste ultime settimane. Lo dico in inglese: too big to fail, cioè ci sono società troppo grandi, troppo importanti per fallire, e si pensava che Lehman fosse una di queste, fosse una società come lo era stata Bear Stearns, come lo sono state Fannie e Freddie, come era stata la Northern Rock in Gran Bretagna, società che erano troppo importanti per lo Stato, perché appunto la manopolazione pubblica le lasciasse andare alla deriva così e le salvasse. Si pensava fosse così anche per Lehman, e questo non è stato. Questo è stato il secondo punto di rottura della scorsa settimana. Il primo è stato appunto il salvataggio di Fannie Mae e Freddie Mac, il secondo è stato lasciare andare per conto suo Lehman. Questo ha preso molto di sorpresa i mercati. Si pensava, si faceva il conto che società fossero alla fin fine salvate, mantenute a galla in qualche maniera dallo Stato, e si è creato quello che viene definito un azzardo morale. Molti investitori hanno continuato a puntare su queste società pensando appunto che ci fosse un salvataggio, e questi sono stati fortemente spiazzati. Il mercato da quel punto, da quel momento lì, non è stato più lo stesso, e probabilmente il mondo finanziario non è stato più lo stesso, ed è anche il motivo per cui noi di Plus questa settimana abbiamo cercato di trarre un bilancio, diciamo una linea netta. La nostra copertina si chiama Anno Zero, e noi cerchiamo di dare all'investitore, cerchiamo, non è molto semplice, di dare all'investitore dei consigli su come ripartire dal dopo linea. Cerchiamo appunto di tracciare una linea netta e vedere adesso cosa si può fare nell'azionario, perché comunque i mercati ci sono ancora, esistono ancora, e oggi li vediamo fortemente rimbalzare, e cosa fare anche nell'obbligazionario a partire dai titoli governativi. Intanto ringrazio per averci raggiunto, credo una giornata piuttosto impegnativa per lui, Giuseppe Marzi, responsabile del settore di private banking per Schroders Italy SIM. Marzi, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. Noi stiamo parlando di questi titoli Lehman Brothers, ma più in generale di questo scenario di mercato che è maturato nelle ultime settimane, per certi versi drammaticamente, e soprattutto cosa si può fare ora per i risparmiatori e le famiglie italiane che detengono obbligazioni più o meno a rischio, perché poi anche le Lehman Brothers, bisognerà vedere, anche avendo invocato il Chapter 11, cioè la protezione dei creditori, come verranno ristrutturati i titoli di debito e che tipo di rimborso potranno essere garantiti ai detentori di questi titoli, perché c'è anche una differenza tra titoli, i senior e i subordinati, che possono comunque garantire una restituzione del capitale a chi li detiene. Sento su questo punto Ceccatelli, perché come dicevo prima DJC Associati è autore di un report molto dettagliato su questo, partendo però da un'altra considerazione con lui. Voi nei vostri portafogli modello avevate suggerito l'acquisto 2 anni fa di titoli Lehman, è ovvio che 2 anni fa nessuno poteva immaginare lo scenario di queste settimane, ma settimana scorsa immaginavate una situazione di questo tipo, Ceccatelli? Mi pare che nel vostro report ammettiate candidamente di no. No, quello che non ci aspettavamo, ovviamente, come ha detto anche Maximiliano Cellino, è che non valesse più il too big to fail per Lehman. Questo, devo dire, era una nostra convinzione fino a 2 settimane fa. Il timore che le cose potessero andare diversamente, in effetti settimana scorsa lo abbiamo avuto, e il motivo era che si stava creando una concentrazione tale di società da salvare che appunto rischiava di mettere la Fed in una situazione molto imbarazzante. Quindi il fatto che Lehman non sia stata salvata dopo che Bear Stearns, che comunque era più piccola, sensibilmente più piccola di Lehman, invece ha subito una sorte migliore, ex post ovviamente lo giustifichiamo così. Settimana scorsa abbiamo suggerito di ridurre al massimo al 3% del portafoglio l'esposizione sulle obbligazioni di Lehman ai nostri clienti. In ogni caso sicuramente non eravamo più così sicuri dell'esito. Devo dire che già settimana scorsa ormai i titoli valevano sul mercato attorno a 50. Quindi già avevano registrato una perdita molto consistente. Noi ci dobbiamo fermare. Marzi, le chiedo ancora qualche minuto di pazienza. Comincerò a sentirla con più calma nella seconda parte di Salvadanaio, dopo aver sentito le anticipazioni di GR Extra Large, e poi cominceremo anche la batteria delle domande da parte dei nostri ascoltatori, che non hanno solo obbligazioni Lehman, ma hanno anche altri prodotti di investimento di cui hanno qualche dubbio. 800 24 00 24 per le chiamate in diretta tra poco. Salvadanaio. Eccoci ritrovati in diretta per commentare lo scenario di mercato che sta maturando in queste settimane, la ripresa dei mercati di oggi, ma soprattutto le prospettive per i risparmiatori italiani che hanno in mano titoli, obbligazioni, prodotti legati alle banche americane in forti difficoltà. Siamo partite dalla questione Lehman Brothers, ma per poi adesso, e lo faremo, allargheremo il tiro anche alle altre obbligazioni, quelle che portano il nome Morgan Stanley, Goldman Sachs, Merrill Lynch e quant'altro. Molti ascoltatori pronti a porci la loro domanda, però non abbiamo ancora sentito Giuseppe Marsi, responsabile del settore di private banking per Schroders Italy Sim. Schroders è un grande gruppo finanziario indipendente, anglosassone. Mi chiedo, non si è mai parlato di voi in questo periodo come possibile entità finanziaria colpita dalla crisi, Marsi, per fortuna. Mi chiedo però voi che atteggiamento state adottando in questo momento con i vostri clienti, visto che molti saranno probabilmente colpiti, non dico dal panico, ma sicuramente dalla grande incertezza. Ma sì, l'atteggiamento con i clienti e soprattutto quelli italiani, perché non scordiamoci che i clienti anglosassoni hanno l'ottica di vedere opportunità di acquisto quando i mercati crollano, invece gli italiani purtroppo hanno l'ottica di sfuggire da eventuali ulteriori crolli, per cui c'è un'ottica completamente diversa. Comunque, io credo che a questo punto bisogna veramente mettere in primo piano l'attenzione su il rischio di credito, e credo che questo sia bene non solo per tutti noi gestori, ma soprattutto per le banche. Noi avevamo un sistema bancario che tra 5 basis point e 15 basis point dava credito a tutti, mentre adesso io credo che si tornerà un pochino alle origini, quando le banche avevano piani di analisti che analizzavano i bilanci e che decidevano a quanto spread dare a credito, e questa era la tipica attività bancaria che produceva gli utili delle banche. Io credo che tutti noi gestori e le banche dobbiamo tornare alle origini. Un creditore non è uguale a un altro, e sembra saltare, come si diceva prima, anche il concetto del troppo grosso per fallire, perché prima lo dicevamo sugli stati, intanto Russia, Argentina eccetera avevano dato segni di fallimento già negli anni scorsi, lo dicevamo delle banche e abbiamo visto Barings e altre banche, Lehman, che sono fallite. Adesso non vorrei che iniziassimo a dire che lo Stato americano non può più fallire, invece questi hanno una crisi che magari è al di là delle loro anche possibilità. Mm. Lei, come dicevo prima, Marsi, responsabile del settore di private banking per Schroders, quindi gestisce patrimoni di una certa entità, patrimoni che probabilmente verranno diversificati al meglio proprio per compensare i rischi con i rendimenti, con i profitti comunque di questi portafogli, ma ha suggerito anche l'acquisto di obbligazioni bancarie americane negli ultimi tempi? No, devo dire che noi non abbiamo, innanzitutto noi facciamo una gestione in cui la diversificazione è massima, per cui facciamo una gestione attraverso SICAV, quindi fondi esteri di diverse case molto frazionate, stiamo molto attenti a che cosa c'è dentro, per cui il sistema bancario è abbastanza a rischio, anche se devo dire a noi non ha toccato proprio per nulla questa situazione, però posso capire che è una situazione che era difficilmente prevedibile, e dico perché secondo me il governo americano insieme al tesoro americano stanno barando, di fatto non è possibile che l'America salvi Bear Stearns e lasci fallire Lehman Brothers, secondo me proprio non sta né in cielo né in terra. Se inizia a salvare deve salvare tutti, se no non deve salvare nessuno. Beh, indirettamente forse con la costituzione del Trust federale deciso ieri è comunque un salvataggio indiretto di tutti gli attori finanziari americani. La lezione di Lehman Brothers forse è stata in qualche maniera così considerata anche in questo senso, non trova? Ma io devo dire che ho i miei dubbi, secondo me era più un attrito personale, cioè si vocifera nel mercato che era un problema caratteriale tra chi doveva essere salvato e chi doveva salvare, ma io non voglio entrare in questo, ma comunque a mio parere non è possibile che in un mercato che è regolato da alcune regole, queste regole si cambino, per cui si chiude lo short selling, poi lo si riapre, poi lo si richiude, adesso è richiuso, tutti noi diciamo i mercati sono rimbalzati, certo hanno chiuso lo short selling, certo. e sono rimbalzati infatti, per forza. Infatti non siamo entrati nel merito anche di questo rimbalzo di questa mattina, determinato anche in qualche maniera da questa decisione della Security and Exchange Commission, la Consob americana, magari ci torneremo, però siccome abbiamo promesso ai nostri ascoltatori che avremmo dato indicazioni anche sui prodotti di investimento detenuti nel loro portafoglio in questa fase, allora comincerei anche a risentirli con Pietro da Milano, che ha proprio obbligazioni Lehman Brothers. Acquistate di recente, Pietro, quando, come, in che contesto? Sì, io l'avevo acquistato, buongiorno a tutto. Buongiorno. Io l'avevo acquistato l'anno scorso del tasso variabile a 5,25 di 11.000 euro e della Lehman Brothers, perché era una doppia A, difficile che potesse fallire. Mm-hmm. Volevo chiedere, signor Ceccatelli, io in che condizione mi trovo e qual è la mia possibilità di recuperare qualcosa? Pietro, la ringrazio. Allora, Ceccatelli, credo che lei, non so se le conosce tutte quelle in circolazione di obbligazioni Lehman Brothers, l'emissione a tasso variabile è per esempio una riconducibile alla categoria senior, quindi sono quelle obbligazioni che potranno avere garantito una restituzione non integrale probabilmente, ma nella ristrutturazione dell'azienda parziale un po' più alta delle obbligazioni secondarie? No, per identificarla bisognerebbe avere un codice. La discriminante sarà sicuramente il livello di seniority, quindi sicuramente le cosiddette senior unsubordinated, quindi le prime obbligazioni che verranno rimborsate col processo di liquidazione, si suppone dovrebbero comunque ritornare qualcosa. Fare una stima, infatti, in questo momento è molto difficile per due motivi. Il primo è che il fallimento di Lehman è un fallimento, o comunque diciamo tecnicamente non è neanche un fallimento, è una sorta di amministrazione controllata, esatto, che ha chiesto Lehman. L'abbiamo detto, sì. Comunque il processo di liquidazione è iniziato e i libri sono stati portati in tribunale di fatto per l'impossibilità di Lehman di mantenere i propri impegni a livello di cassa essenzialmente. Non c'è una definizione in questo momento, una situazione tecnica di fallimento, nel senso che nessuno ha ancora stabilito se gli attivi sono più o meno dei passivi. Detto questo, è evidente che gli attivi di una banca, il bilancio di una banca sono un'entità estremamente volatile e il rischio è che una buona parte degli attivi di fatto si deprezzi estremamente velocemente e quindi difficilmente appunto l'attivo sarà più del passivo e quindi molto difficilmente si arriverà a una restituzione integrale. Quindi magari vendendolo adesso, Ceccatelli, non so, per questo ascoltatore potrà, a patto che abbia una liquidità sul mercato, questo titolo in particolare, potrà recuperare al massimo quanto potrebbe ambire a recuperare in un momento in cui la Lehman si è ristrutturata, si è riorganizzata in base alla regolamentazione del Chapter 11. È molto difficile. Adesso i titoli trattano tra 15 e 20 sul denaro, da quello che sappiamo. È estremamente difficile ipotizzare quale sarà il risultato del processo di liquidazione e quindi dobbiamo... l'incertezza è massima. Volevo aggiungere che questo per quanto riguarda le obbligazioni senior, per quanto riguarda le obbligazioni più junior, quindi le subordinate, anche le subordinate di livello più alto, difficilmente si arriverà a qualche tipo di rimborso. A qualche tipo di restituzione del capitale investito. Enzo, dalla provincia di Novara, sentiamo la sua domanda per poi andare ai suggerimenti per chi è in viaggio. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io ho acquistato circa 2 anni fa, tramite le Poste Italiane, delle obbligazioni della Merrill Lynch, sì, con scadenza 2012. E volevo sapere, dato che ho sentito che anche questa banca è stata... è stata scalata da Bank of America. Però non si riusciva a capire dall'informazione se era dovuta a un fatto che era in crisi come le altre banche o se era soltanto un'acquisizione della Bank of America senza nessun motivo nascosto dietro. Diciamo che sicuramente la crisi in corso ha reso talmente appetitose certe banche che altre che sono molto meglio capitalizzate riescono anche a scalarle con facilità, un po' come sta facendo anche per esempio Barclays con certi asset di Lehman Brothers, quelli del Nord America eccetera. È chiaro che la crisi ha fatto scendere molto i prezzi, però sentiremo i commenti dei nostri interlocutori subito dopo i suggerimenti per chi è in viaggio. Salva Danaio. Eccoci ritrovati a Salva Danaio. Giuseppe Marsi, chiedo a lei un commento sull'ascoltatore che abbiamo sentito poco fa. Obbligazioni Merrill Lynch, conquistata proprio per effetto anche della crisi da Bank of America. A questo punto che cosa potrebbe succedere per questi titoli del nostro ascoltatore? Ma al limite io credo un downgrading se le società di rating rivedranno il valore del credito di queste società, però a questo punto ne dubito francamente, perché mi sembra che il fatto che Merrill poi sia accasata con una banca commerciale è quello che probabilmente succederà anche alle altre due investment banking americane, quindi Morgan Stanley e Goldman, e io credo che questo dovrebbe essere dovrebbe mettere a riparo e in sicurezza questi titoli. Però ecco, ancora non possiamo stabilirlo con assoluta certezza. No, non possiamo stabilire in assoluta certezza, anche perché in certi casi, ad esempio quando si parlava di Morgan Stanley con Wachovia, insomma sia Wachovia che Morgan Stanley da un punto di vista di spread dimostrano una certa debolezza, e mi sembra che il tentativo di metterle insieme sia più quella di trovare una massa adeguata per essere eventualmente salvati, perché questo potrebbe anche essere la strategia che queste banche in questo momento stanno seguendo. Mm-mm. Anche se voglio dire, nessuno può mettere la mano sul fuoco di nessun tipo di struttura finanziaria. Quello che sembrerebbe è che la Fed comunque voglia andare al cuore della questione e voglia fare questo fondo che darà liquidità. Secondo me questo è da considerare, perché potrebbe essere, se funziona, una cosa buona, anche se è una cosa che rimetterà in circolo tutta la bolla monetaria che ha prodotto questo, e quindi potrebbe essere anche inflattivo. Insomma, viaggiamo ancora una volta sempre sul filone delle ipotesi. In ogni caso queste sono giornate assolutamente incredibili per tutti gli speculatori più accaniti del mercato, che da ieri ad oggi sono riusciti appunto a mettere a segno guadagni di assoluto rilievo, ma magari erano anche riusciti a ottenere guadagni al ribasso. Detto questo, torniamo ai nostri ascoltatori. Allora, con Marco da Pavia poi introduciamo anche se ci mancano pochi minuti prima della chiusura, il discorso delle polizze vita indicizzate nel nostro paese a titoli di obbligazioni bancarie americane. Marco da Pavia, benvenuto. Buongiorno, senta, io ho sottoscritto delle polizze Index Link con Mediolanum un paio di anni fa. Fortunatamente non contengono obbligazioni Lehman Brothers, pertanto dovrei essere tutelato in questo senso, ma le assicuro che venivano vendute con la certezza di recuperare alla fine il capitale investito. Certo. Venivano vendute con una totale sicurezza, e secondo me a questo punto è inutile parlare di profili di rischio se poi non vengono poi rispettate all'atto della vendita. Poi è vero che nel contratto vengono specificate queste cose, ma infatti io lì volevo arrivare, Marco, perché poi adesso sentiremo Ennio Doris, anche numero uno di Mediolanum, che ieri abbiamo raggiunto per farci spiegare un po' se sono preoccupati su questa esposizione che loro non considerano tale su titoli Lehman Brothers. Però nel prospetto informativo delle polizze che hanno venduto legate a Lehman Brothers c'è scritto chiaramente che ogni rischio è a carico del sottoscrittore. Nei suoi prospetti, Marco, è andato a vedere se anche questa formula è citata con chiarezza? Alla luce delle notizie che è andato subito a vedere, dice lei. Andato a vedere. E i rischi sono tutti a carico suo. È vero, è vero. Però le assicuro che i loro venditori, diciamo, quelli che chiamano family banker, hanno una condotta molto sciolta in questo senso. Marco, io non so se poi parlo della singola persona o se parlo delle... No, ma questo credo che sia un atteggiamento diffuso. È chiaro che poi nei confronti di un cliente non è che si possa venire nella casa di un cliente e dire: guarda, ti vendo un prodotto che ha dei rischi. È chiaro che poi l'atteggiamento magari per qualcuno sarà anche di faciloneria, però magari colgo l'occasione anche per sentire due cose da Maximilian Cellino, che credo proprio abbia monitorato con Plus 24 di domani, forse non l'hai fatto tu, l'atteggiamento di qualche promotore finanziario, adesso lasciando da parte quelli citati dall'ascoltatore, però forse a volte un po' di leggerezza. Ma sì, io stavo sorridendo prima quando parlava Marsi, che diceva della differenza tra l'atteggiamento degli italiani e degli inglesi. Lui parlava di atteggiamento degli investitori, e nella ricerca fatta, nell'indagine fatta da due miei colleghi Stefano Elli e Raffaella Ulgheri, tra i promotori sembra che i clienti siano diventati improvvisamente più inglesi degli inglesi, perché a sentire i promotori non c'è stato panico, poche telefonate, qualcuno per spiegare, per chiedere se andava tutto bene, alla risposta del promotore sì, va tutto bene, non ci sono, state pure tranquilli, hanno messo giù il telefono. Questo sembra un po', francamente sembra un po' strano, anche dal numero, immagino stamattina, Deborah, delle telefonate che arrivano. Sì. Ci sono molte persone, molti investitori che sono giustamente preoccupati, magari questi non si sono affidati ai promotori, e quelli che si sono affidati ai promotori si fidano ciecamente dei promotori che in questo momento riescono a tranquillizzarsi e fanno bene il loro lavoro. Però insomma mi sembra un po' strano che non ci sia stata nessuna, pochissimi sono stati quelli che hanno risposto che la settimana scorsa, quella che conclude oggi, è stata in realtà una settimana campale, come penso sia stata. Mi è sembrato abbastanza evidente. A pagina 10 del Sole 24 Ore di questa mattina vi suggerisco il decalogo per chi non vuole farsi travolgere dai crolli, curato da Marco Liera, responsabile di Plus 24 del Sole 24 Ore. Noi però sentiamo anche le precisazioni di Ennio Doris sulle polizze Vita Mediolanum. Il gruppo Mediolanum non è esposto con Lehman Brothers, né con mutui subprime, né con qualsiasi altro titolo di questo genere, se non per cifre assolutamente insignificanti. E allora perché si parla tanto di voi, Presidente? 60 milioni sono investimenti che 10.500 clienti nostri su circa 1.100.000 hanno, fra tanti altri investimenti che noi abbiamo suggerito, anche queste obbligazioni di Lehman Brothers. E voglio dire che questi clienti, che hanno mediamente a testa circa 15.000 euro investiti in queste obbligazioni, hanno oltre 100.000 euro in tanti altri investimenti grazie a questa diversificazione. Non posso dire ancora che cosa faremo prima, perché dobbiamo esaminare varie opzioni al nostro interno. Secondo, perché non sappiamo ancora esattamente quelle che saranno le perdite, che immagino ci saranno sicuramente, per gli obbligazionisti. Quindi aspettiamo che si chiarisca la situazione e nel frattempo noi mettiamo a punto quello che faremo. Comunicheremo al mercato quello che avremo deciso di fare nel momento in cui partirà l'azione. Sicuramente penso prima della fine dell'anno, perché alla fine dell'anno scade una piccola tranche che è di una ventina di milioni di euro di questi clienti, quindi prima di allora sicuramente. E certo, bisognerà vedere anche come verrà condotta in porto la ristrutturazione di Lehman Brothers. Tra l'altro c'è stata ieri sera anche una precisazione della compagnia Unipol Assicurazioni, che ha fatto sapere che darà facoltà ai sottoscrittori di polizze index linked con attività sottostanti Lehman di ottenere alla scadenza del contratto il rimborso del capitale originariamente sottoscritto, per cui in qualche maniera i sottoscrittori di polizze riconducibili a Lehman vengono protetti. Io non riesco a fare altri commenti, no, forse un minutino di tempo ce l'ho, lo concludo con Giuseppe Marzi per capire insomma qual è, poi torneremo magari a risentirlo anche prossimamente, così come Ceccatelli e il collega Maximiliano Cellino, qual è insomma l'atteggiamento giusto da adottare in questo momento se si scopre di avere in portafoglio un titolo che in qualche maniera ci lega alla crisi americana, Marzi. Ma lo si diceva prima, siccome non si conoscono i dati effettivi di questo, che non è, come si diceva prima, un fallimento, ma è un'amministrazione controllata, io direi di non precipitarsi a vendere i titoli alle quotazioni che ci sono adesso sul mercato, che sono, mi sembrano molto molto conservative. Io spero che alla fine la situazione, naturalmente perdite ci saranno per queste persone, però ecco, non sia una nuova Argentina, ma sia una qualche cosa di meglio, insomma. Comunque torneremo su questi temi sicuramente molto presto, continueremo attentamente a monitorare il mercato. Vedo anche degli ascoltatori che ci scrivono esprimendoci preoccupazione sui fondi pensione, ne abbiamo parlato anche un paio di giorni fa, allora noi torneremo anche su questi prossimamente. Grazie a Maximiliano Cellino, Jacopo Ceccatelli e Giuseppe Marzi. Salvadanaio torna lunedì. Da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti.